Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, ben ritrovati. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro sguardo al di fuori di quello che accade dai confini italiani. I saluti vi arrivano anche da Antonio Talia, Silvia Malnati, Eleonora Aragona che sono in redazione e Gianmarco Ferronato quest'oggi in regia. Commenti, domande, ma anche suggerimenti sui temi che potremmo trattare nelle ultime due settimane di programmazione al 349-238-6666. Vi ricordo che il numero vale sia per gli SMS che per i WhatsApp. Poi Twitter, NessunLuogo24, ovvero il mio account personale che è Giampaz. Infine Facebook, NessunLuogoLontano-Radio24. Allora, ieri si sono chiuse le Olimpiadi a Rio e la politica ha fatto irruzione violentemente. Lo ha fatto così. If it goes in Ethiopia, automatically they kill me. If not kill me, they challenge. Se torno mi uccidono, lo ha detto dopo aver corso 42 chilometri, dopo che all'arrivo ha alzato le braccia al cielo, medaglia d'argento, ma poi le ha aggiunte come fosse stato ammanettato. Poi lo ha ripetuto durante la premiazione. Chissà quante volte ci ha pensato durante quella gara. 2 ore, 9 minuti, 54 secondi. Quante volte avrà programmato quel gesto? Feisa Lilesa, corridore, etiope, maratoneta, la gara forse più importante, più celebre, forse più antica. E beh, insomma, quel gesto politico che ha richiamato le proteste in Oromia, in Etiopia, ha fatto saltare sulla sedia tanti commentatori, tanti analisti e forse lui stesso, perché si è reso conto che quel gesto, e lo ha dichiarato davanti ai microfoni e telecamere, insomma, potrebbe costargli la vita. Lo stesso atleta aveva detto: io non ho informato nemmeno il mio manager, nemmeno i miei compagni che avrei fatto quel gesto. Di sicuro quel gesto, se non l'ha programmato, nemmeno i giornali avevano programmato di parlare di Etiopia, questa lontana, questa sconosciuta. Chi ci segue però sa che noi l'avevamo fatto. Proprio il 9 agosto avevamo parlato delle violente proteste, ma soprattutto della violenta repressione da parte di Addis Abeba rispetto appunto alla popolazione degli Oromo, che è la stessa tribù a cui appartiene il corridore Lilesa. Allora, prima di correre a Rio de Janeiro, dove c'è ancora Dario Ricci, ricapitoliamo quello che è stato gli eventi, gli accadimenti appunto in Etiopia. Dallo scorso novembre l'Etiopia è stato teatro di una serie di proteste contro il governo. Le contestazioni, espressione del forte dissenso nei confronti del presidente Malatu Testome, sono iniziate a gondar nella regione di Amara per poi diffondersi successivamente anche in Oromia. Qui, secondo Human Rights Watch, oltre 400 persone sono morte negli scontri con la polizia. Tra sabato e domenica, le forze dell'ordine hanno soffocato nel sangue una serie di manifestazioni, uccidendo circa 100 persone, di cui 30 nella città di Bahir Dar. Era da 25 anni che non si assisteva a un'ondata di violenza simile. In Amara e Oromia vivono i due gruppi etnici più importanti del paese, che lamentano sia la loro esclusione dal potere politico e dallo sviluppo economico, sia la mancanza di riforme e di elezioni libere e democratiche nel paese. Oltre alla violenta repressione delle sollevazioni popolari, il governo ha bloccato l'accesso a internet per 2 giorni. Questa è la cronologia degli eventi che avevamo raccontato proprio il 9 agosto, dopo quel weekend particolarmente drammatico che l'Oromia soprattutto aveva vissuto. Allora andiamo da Dario Ricci. Dario, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Ben ritrovato Giampaolo, allora, un abbraccio, sono Dario. Eccoci, Dario Ricci, proprio alla fine, l'ultima gara, c'è stato questo importante sipario tutto politico che molti commentatori hanno già assimilato, hanno già accostato a quel gesto di protesta che forse alcuni di noi ricorderanno. Mexico City era il 1968, i due atleti di colore statunitensi Tommy Smith, John Carlos alzarono il pugno, no? Per protestare appunto per la persecuzione razziale. E qui c'è una stessa dinamica, se volete, però nessuno se l'aspettava questa cosa. Dario Ricci. Beh sì, forse anche un po' la nostra visione, diciamo, eurocentrica o comunque che ci ha reso questo gesto ancora più inaspettato, no? Perché come abbiamo sentito pochi istanti fa, la questione era già sul tavolo e voi proprio di nessun luogo lontano l'avevate già in qualche modo approfondita. È chiaro che l'Olimpiade è il palcoscenico più importante e quello che mi preme sottolineare da subito, non è un luogo estraneo, avulso dal mondo reale, e quindi per alcuni aspetti non è sorprendente che l'ILESA abbia compiuto questo gesto, così come non è sorprendente che proprio Carlos Smith decisero di fare quel gesto sul podio olimpico nel 68, perché per quanto sembri un parco gioco da fuori, un immenso Disneyland, non è un posto fuori dal mondo, anzi è intriso dello spirito del mondo. Sì. Ecco Dario, questa forse quello che è accaduto e i riflettori ripuntati sull'Etiopia forse ha bilanciato quella critica feroce che veniva continuamente mossa. Si diceva attenzione perché nelle favelas intanto si continua a morire, questo Brasile, questo parco giochi, come dicevi tu, totalmente distaccato dalla realtà. Ecco che attenzione, improvvisamente quel palcoscenico, quel parco giochi, guarda un po', diventa un megafono incredibile per riaccendere i riflettori su una questione completamente dimenticata. Allora forse c'è una funzione anche virtuosa delle Olimpiadi. Chi le bestrattava prima adesso è costretto a dire beh, però forse qualcosa anche politicamente aiutano. Ma guarda, non sono molto d'accordo sull'avverbio, perché non è accaduto nulla improvvisamente, perché se pensiamo che il Kosovo ha vinto la prima medaglia della sua storia, tra l'altro un oro, non lo sappiamo bene perché sì. La Kalmendi, l'atleta kosovara, ha battuto la nostra Giuffrida in finale nel judo. Se pensiamo che con un gesto di tutt'altro significato la nostra Elisa Di Francesca ha portato sul podio del fioretto femminile la bandiera dell'Unione Europea, e se sì. Poi anche quello è un gesto politico, e tra l'altro da regolamento del CIO tutto sommato non so neppure quanto stricto senso ammesso, perché sì. Tali manifestazioni formalmente vengono sanzionati. Se pensiamo che almeno vado a memoria uno, ma credo almeno due, gli episodi in cui atleti, sicuramente un atleta egiziano ha rifiutato di stringere la mano al proprio avversario sì. Israeliano al termine del match, direi che proprio improvvisamente non è la politica che è entrata nei giochi, perché c'è sempre stata, sì. Ma ce ne siamo accorti. E poi qua a Rio basta alzare lo sguardo per vedere le favele, quindi fai fatica proprio a dimenticartela. Insomma, sì, insomma, un appuntamento olimpico intriso di politica, che forse ha vissuto in questo finale un momento ancora più forte, proprio perché la crisi era particolarmente dimenticata. Hai colto tra i tuoi colleghi internazionali, Dario Ricci, qualche reazione particolare, qualche commento particolare nelle sale stampa? Come è stata accolta quest'ultimo gesto? C'è stato un subito andare su Google a cercare dov'era l'Etiopia, chi sono gli Oromo? bravo. Sì, hai detto proprio bene, perché era chiaramente abbiamo enfatizzato la risposta precedente, sicuramente era un gesto inatteso, proprio perché nel nostro panorama culturale quella zona del mondo è completamente dimenticata, anche se poi la maratona è anche l'occasione per accendere i riflettori, perché di solito l'oro della maratona se lo giocano sempre etiopi e keniani, però sì. Sicuramente è un gesto che ha avuto un'eco clamorosa. Considera anche, Giampaolo, che poi chi vince la maratona e l'intero podio viene premiato, come è stato ieri Kipchoge, quindi anche gli altri due protagonisti della corsa, in occasione della cerimonia di chiusura. Quindi sì. Evidentemente tra la premiazione, l'arrivo e poi quella che è stata qualche ora dopo la cerimonia di chiusura, qualcuno deve aver parlato con l'ILESA e avendogli fatto capire che sì, il messaggio era passato, ma era bene poi non ripeterlo su un palcoscenico ancora più ampio. Sì. Sì. Hai per caso notizie, c'è qualche rumor che circola, che viene sussurrato su quello che deciderà di fare? Perché si è detto, ma sì, potrei andare negli Stati Uniti, potrei rimanere qua, chiedere un'estensione del visto, addirittura andare in Kenya se se mi vogliono. Fra l'altro ricordo che è partita ieri su una piattaforma di crowdfunding una raccolta di fondi appunto per dargli una mano economicamente e poterlo far stare fuori dall'Etiopia. Era partita con un obiettivo di poche migliaia di euro, sono stati raggiunti 30.000 euro in pochissime ore, segno che comunque c'è stata un'attenzione. Circola qualche indiscrezione su quelle che potrebbero essere le sue prossime tappe, le sue prossime mosse? No, devo dire di non avere notizie di ultimissima mano, proprio perché poi la retorica della cerimonia di chiusura delle ultime ore delle Olimpiadi ammanta tutto e attenua tutti e smussa tutti gli angoli. Per paradosso, devo dire, ricollegandoci all'episodio celebre che citavi tu di Messico 68, sì, vale la pena ricordare che Carlos e Smith pagarono amarissimamente, se mi è concesso, il loro gesto di protesta con anni di assoluto isolamento e distenti anche dal punto di vista economico. Per paradosso vedremo anche come reagirà la società dei media, no? Sì. Perché questo gesto potrebbe in qualche modo garantire anche al maratonete etiope una sorta di scudo internazionale nel breve periodo. Bisognerà vedere invece cosa succederà nei mesi prossimi. Sicuramente il suo primo obiettivo è stato raggiunto, si è accesa la luce su questo argomento. Bisogna vedere quanto rimarrà appunto accesa. Grazie mille Dario Ricci, che ci ha raccontato ai retroscena, grazie anche politici, questa maratona. Fra l'altro per te si chiude anche la maratona olimpica, perché ti sei fatto una bella tirata, devo dire, sì. Per Radio 24, quindi buon rientro, ti aspettiamo qua. Grazie mille Dario Ricci, buona giornata e buon lavoro. Grazie. E do il mio buongiorno e il mio benvenuto e ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Luca Puddu, esperto di Etiopia e ricercatore all'Institute for Global Studies, North African Institute, è l'Università di Cagliari. Dottor Puddu, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie per l'invito. Puddu, non è un paradosso che quello che non sono riusciti a fare Amnesty International, Human Rights Watch e alcuni giornali internazionali e noi nel nostro super piccolissimo Nessun Luogo Lontano, ma figurarci se potevamo fare qualcosa, alla fine quel gesto con le due braccia incrociate, per carità, era un grandissimo palcoscenico internazionale, però alla fine potrebbe veramente fare qualcosa questo gesto? Ma guardi, questo gesto potrebbe sicuramente generare mobilitazione soprattutto all'interno della diaspora e sui media internazionali. Poi a livello locale bisogna vedere in che misura questo gesto arriverà appunto in loco, anche in virtù del controllo che è stato esercitato di recente dal governo, soprattutto su internet. Quindi insomma, ecco, credo che avrà soprattutto un impatto a livello internazionale e nella diaspora, dove l'opposizione a Roma è molto attiva. Sì, fra l'altro ha fatto bene insomma a citare la censura, perché ricordiamo che la televisione etiope ha tagliato fondamentalmente quella scena lì in cui c'era ovviamente il gesto di protesta, per cui evidentemente l'infiltrazione, no, del gesto, la conoscenza del gesto è affidata appunto a canali diversi, non certamente la TV di Stato. Feisa ha detto apertamente: io rischio la morte. È plausibile, si può davvero pensare che questo atleta sotto i riflettori, conosciuto da tutto il mondo, possa tornare da Addis Abeba e veramente rischiare la vita, secondo lei? Per carità, io chiaramente non posso dare certezze. Credo forse che l'atleta non rischi la morte anche appunto per la sovraesposizione mediatica. Indubbiamente in questi mesi ci sono stati degli arresti, denunce di detenzioni straordinarie da parte delle autorità etiopiche nei confronti di manifestanti e esponenti politici riconducibili all'opposizione Oromo. In alcuni casi effettivamente questi arresti sono tradotti anche in condanne a morte sulla base della legge antiterrorismo che vige in Etiopia, questo soprattutto negli anni passati. La gran parte però delle persone arrestate in realtà si trovano nelle carceri etiopiche. Naturalmente ci sono denunce soprattutto da parte delle agenzie per i diritti umani che appunto queste persone siano soggette a torture o trattamenti degradanti, accuse che il governo etiopico tempo in realtà respinge, quindi è molto difficile poi capire dove sia la verità e quanto queste accuse siano veritiere. Sicuramente c'è una forte repressione però da parte delle autorità governative, questo è indubbio. Sì, ed è anche indubbio che era da parecchio tempo che non si assisteva a un'ondata simile di proteste. E il Maratoneta, che ieri ha fatto questo gesto e riacceso i riflettori proprio su quelle proteste, appartiene a questo gruppo, gli Oromo, i quali denunciano fondamentalmente, pur essendo numericamente numerosi, denunciano un'esclusione da parte della vita politica ad Addis Abeba. Ci può spiegare meglio, dottor Puddu, di che tipo di conflitto, di che tipo di tensione si tratta? Guardi, in maniera molto sintetica, diciamo, la retorica nazionalista Oromo si basa principalmente sul fatto che a partire dalla fine del XIX secolo le comunità Oromo residenti nella parte meridionale, soprattutto dell'altopiano etiopico, sono state soggette ad un regime politico ed economico di sfruttamento e di fatto sottoposte a un regime di servitù da parte dei conquistatori che arrivavano dalla parte settentrionale dell'altopiano. Questo regime di sfruttamento in teoria è stato risolto nel 1975 con l'abbattimento di quella classe latifondista proveniente dalla parte settentrionale dell'altopiano e di lingua amara, e tutt'oggi la coalizione di governo dell'Ethiopian People's Republic Democratic Front ha tentato di stemperare la questione etnica attribuendo il diritto di autogoverno alle varie etnie che popolano il territorio etiopico. Il tema della perdurante discriminazione ai danni della comunità Oromo è sicuramente un tema attuale, ci sono effettivamente casi di squilibri all'interno della compagine governativa da cui derivano sì, maggiori vantaggi politici ed economici per determinate regioni piuttosto che per altre. Sì. È anche vero che la retorica nazionalista Oromo è soprattutto figlia di un'avanguardia intellettuale. Oromia oggi è uno stato regionale che abbraccia comunità che divergono per background storico, per affiliazione religiosa, anche per attività economiche, per cui parlare di una comunità monolitica Oromo è un pochettino un discorso artificioso. Il problema è che l'attuale Costituzione etiopica attribuisce diritti all'individuo anche in virtù della sua appartenenza etnica, quindi c'è un incentivo ad utilizzare l'appartenenza etnica come strumento di mobilitazione politica. Grazie mille per queste precisazioni. Luca Puddu, lo ricordo, ricercatore all'Institute for Global Studies, al North African Institute e all'Università di Cagliari, ed esperto di Etiopia, e ci ha aiutato a ritornare su questo tema, complice quel plateale gesto compiuto dal maratoneta etiope proprio ieri. Grazie mille Puddu, buona giornata, buon lavoro. Grazie mille, buona giornata anche a lei, arrivederci. E adesso cambiamo decisamente pagina, cambiamo decisamente argomento e andiamo in un'aula di tribunale. Il tribunale è quello dell'AIA. E la voce che avete sentito è quella di Ahmad al-Mahdi, che oggi al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA ha detto: io sono colpevole e chiedo scusa per la distruzione di 4 mausolei di Timbuktu risalente al 2012. Quello che si è aperto oggi all'AIA è probabilmente un processo storico, perché per la prima volta la distruzione dei beni artistici viene messa sotto i riflettori del tribunale. E Ahmad al-Faqi al-Mahdi, questo è il nome completo, poi ribattezzato in Abu Turab, che si era affiliato come locale a Ansar eddin, che è una costola di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, formazione jihadista che nel 2012 aveva messo sotto scatto non solo Bamako ma in parte e per un certo periodo anche il contingente francese. Insomma, lui per la prima volta è arrivato alla sbarra e dovrà rispondere, sta rispondendo, dell'accusa di aver partecipato, coordinato e anche effettivamente praticamente realizzato la distruzione dei 9 monumenti a Timbuktu in Mali, quei monumenti mitologici, perché erano le testimonianze dei santi sufi, erano monumenti antichissimi dove vi erano contenuti quei celebri manoscritti che poi in realtà in maniera rocambolesca furono messi quasi tutti in salvo. Detto ciò, la distruzione c'è stata, è un pezzo di un frammento di storia, un pezzo di cultura, quella maliana è andata perduta. Allora, che cosa fa il Tribunale Penale Internazionale? Prima di coinvolgere il nostro prossimo ospite, ascoltiamo ruoli e funzioni e poi entriamo più nelle pieghe giuridiche di questo processo che si pronuncia storico e che dovrebbe arrivare a sentenza questo venerdì. La Corte Penale Internazionale è un tribunale penale permanente con sede all'Aia. Istituita con lo Statuto di Roma, entrato in vigore nel 2002, la Corte si occupa di giudicare individui e organi statali accusati di aver commesso genocidi, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. A oggi aderiscono alla Corte Penale Internazionale 123 Stati. Possono chiedere l'intervento del Tribunale gli Stati parte della Convenzione, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Inoltre il procuratore può avviare un'indagine sulla base delle informazioni ricevute da ONG o cittadini e approvate dalla Camera preliminare. La Corte può esercitare le sue competenze solo se lo Stato che ha giurisdizione sul caso in esame non possa o non voglia perseguire il crimine. Il Tribunale dell'AIA non ha carattere universale, quindi non può giudicare i cittadini degli Stati che non hanno aderito allo Statuto, a meno che questi non diano l'esplicito consenso. La Corte si compone di 18 giudici che vengono selezionati tra i cittadini degli Stati aderenti allo Statuto secondo i criteri di imparzialità, levatura morale e integrità. È necessario che rispondano anche ai requisiti richiesti nei loro rispettivi stati per l'esercizio delle massime cariche giudiziarie. La Corte ha emesso 2 storiche sentenze, quella del caso Thomas Lubanga, il militare congolese condannato per crimini di guerra, e quella del caso Radovan Karadzic, l'ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia, condannato per genocidio. Edoardo Greppi, professore ordinario di diritto internazionale umanitario, tutela dei diritti umani al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, che cosa significa questo processo? È davvero storico? Sicuramente è un processo storico, nel senso che è la prima volta che un tribunale internazionale, penale internazionale, affronta il tema di quella particolare categoria di crimini che possono rientrare oltre ai crimini di guerra, oltre ai crimini contro l'umanità, che consistono nella distruzione di beni culturali. Le norme del diritto internazionale umanitario a tutela dei beni culturali e dei luoghi di culto risalgono nella prima formulazione a più di un secolo fa, con le convenzioni dell'AIA del 1907, e poi via via sono state affinate, completate da altre convenzioni internazionali che prevedono appunto il divieto di distruggere, di recare danno a beni culturali di interesse e di valore internazionale. Sì. Però è la prima volta che abbiamo un processo interamente dedicato a giudicare e punire chi si è reso colpevole di violazione di queste norme. Quindi è storico. Ecco, chiedo scusa professore, è storico in questo senso, lo sarà anche in futuro, e mi scuso per il gioco di parole perché parlare di storicità nel futuro forse è un paradosso, potrà essere un precedente, nel senso che allora vi sono casi eclatanti, no? Pensiamo ai Buddha distrutti dai talebani, pensiamo a Palmira, insomma casi di distruzione di beni archeologici, patrimonio dell'umanità sono stati tanti, potrebbe essere un precedente? Io credo di sì, ancorché poi in realtà di precedenti ce ne siano stati, cioè fin dal processo del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, che risale oramai a 70 anni fa, abbiamo avuto alcuni imputati che erano accusati di avere commesso dei crimini con riferimento appunto ai beni culturali. Pensiamo al feldmaresciallo Göring, pensiamo a Alfred Rosenberg o al feldmaresciallo Keitel. Sì. In alcuni casi, come Keitel, si trattava di crimini di guerra in senso proprio, negli altri casi, come Rosenberg, il tribunale di Norimberga aveva ritenuto che si potesse fare rientrare questo tipo di crimini nella categoria più ampia della persecuzione, così prevedeva lo statuto del tribunale di Norimberga. Il tribunale per l'ex Jugoslavia, che è tuttora in funzione da oltre 20 anni, ha celebrato alcuni processi nei quali si voleva soprattutto giudicare chi si era reso responsabile di distruzioni o di moschee o di chiese o di edifici o d'oggetti che avessero un particolare significato per la cultura di una etnia. I conflitti balcanici si sono caratterizzati per essere appunto interetnici, interreligiosi, eccetera, come conflitti. E questo ha significato, non so, prendiamo per esempio la distruzione della biblioteca di Sarajevo, pensiamo alla distruzione del ponte di Mostar. Cioè qui si tocca un aspetto delicato, cioè la Convenzione dell'AIA del 54 per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati stabilisce che i beni culturali debbano essere considerati patrimonio comune dell'umanità. Patrimonio comune dell'umanità vuol dire che è vero che il Duomo di Milano sta a Milano ed è in territorio italiano, ma la sua bellezza, la sua importanza per la cultura italiana ed europea fa sì che in realtà sia un patrimonio dell'umanità, e lo stesso poteva dirsi del ponte di Mostar, della biblioteca di Sarajevo o di questi beni a Timbuktu. Chiarissimo. Professore, quindi, le faccio fare una piccola pausa. Stia con noi, adesso c'è l'informazione finanziaria e poi torneremo a quest'altro valore, un po' diverso, insomma, anche piuttosto complesso, quello dei beni culturali. Stia con noi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun luogo è lontano. Oggi stiamo dedicando una buona parte della trasmissione all'apertura all'AIA, al Tribunale Penale Internazionale, dell'udienza che potrebbe portare a sentenza entro questo venerdì, una sentenza di condanna, se verrà accolta la richiesta della procura, verso Ahmad al-Faqih al-Mahdi, Abu Turab, detenuto già dal 2015, era scappato in Niger, poi era stato arrestato, colpevole, secondo l'accusa, di aver partecipato e programmato la distruzione di 9 monumenti nella magica Timbuktu del Mali, aver così strappato un pezzo di storia ai maliani. È la distruzione di reperti archeologici e di strutture di tale importanza, di beni artistici, un crimine contro l'umanità? È un po' questo il cuore della domanda che sta oggi qui a Nessun luogo è lontano. E ci sta aiutando a rispondere Edoardo Greppi, che è professore di diritto internazionale e umanitario all'Università di Torino, il quale giustamente citava anche esempi durante la Seconda Guerra Mondiale in cui il patrimonio artistico diventava un bersaglio, diventava un target. Professor Greppi, il Mali ha chiesto di pronunciarsi all'AIA, cioè ha demandato questo procedimento fino all'AIA. Perché il processo non è stato celebrato a Bamako, visto che il paese stesso, il Mali, comunque ospitava questi monumenti? È un classico caso che rientra nelle previsioni dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, che prevede che la giurisdizione della Corte Penale Internazionale appunto sia una giurisdizione complementare, cioè l'articolo 17 dello Statuto di Roma dice che la Corte può esercitare la sua giurisdizione su richiesta di uno Stato parte o su richiesta del Consiglio di Sicurezza o per un'iniziativa del procuratore nei casi in cui lo Stato che dovrebbe provvedere a punire gli autori di questi crimini non possa o non voglia farlo. Sono situazioni particolari che chiaramente presentano una vasta gamma di possibilità, cioè c'è lo Stato che non voglia farlo, beh, questo è evidente, è lo Stato per esempio in cui il regime al potere sia ancora lo stesso cui appartengono gli uomini che hanno perpetrato questi crimini, quindi palesemente non ha alcun interesse a processarli, Ma pure ci sono le situazioni in cui lo Stato non può, ed è uno Stato per esempio con una grave situazione di conflittualità interna, ed è il caso del Mali, oppure può essere uno Stato cosiddetto fallito, i failed states, sì, immaginiamo sì. Una Somalia sì. In cui non ci sono tribunali in grado di funzionare, c'è una polizia. Allora in questo caso la giurisdizione è giurisdizione complementare, mentre invece il caso del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia prevedeva che questo tribunale, che tuttora è in attività e che ha appunto condannato Karadžić qualche mese fa, abbia una giurisdizione che gode del primato sulla giurisdizione degli stati, cioè la pretesa punitiva del tribunale per l'ex Jugoslavia prevale su una eventuale pretesa punitiva di uno stato. Qui invece la giurisdizione complementare del Mali in questo caso si trova in una condizione di non poter o di non voler esercitare la giurisdizione, e allora la Corte Penale Internazionale può farlo. Grazie mille. Professore Edoardo Greppi insegna diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani all'Università di Torino. Grazie per queste precisazioni che ci aiutano meglio a comprendere il ruolo di questo tribunale penale che, lo ripeto, dovrebbe pronunciarsi entro venerdì e attenzione perché il rischio della pena arriva fino a 30 anni. Grazie mille professor Greppi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. Allora, questo è l'aspetto prettamente giuridico, ma come spesso accade, la giurisprudenza anche internazionale fotografa la realtà, sostiene in qualche modo quello che è anche un sentimento popolare di impegno civile. Una cosa è certa, i beni artistici e il patrimonio culturale fanno parte della nostra storia, contribuiscono a costruire la nostra identità ed è per questo che la distruzione di quei beni può configurarsi come vero e proprio crimine di guerra. Giro la domanda, la considerazione, chiedo anche in qualche modo una reazione rispetto a questa apertura dell'udienza a Franco D'Agostino, che è docente di assirologia presso il Dipartimento Italiano di Studi Orientali alla Sapienza ed è direttore degli scavi nel sito di Eridu e co-direttore del progetto di scavo di Abu Tbeira. Entrambi i siti sono nell'Iraq meridionale. Professor D'Agostino, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buonasera a lei, chi ci ascolta. Allora, spero di non aver sottaciuto alcun dei suoi impegni, perché no. sono particolarmente corposi e particolarmente importanti, e dato il suo impegno, professore, le chiedo immediatamente una reazione rispetto a questa storica apertura del Tribunale verso appunto questo crimine di guerra. Per la prima volta distruzione dei beni artistici uguale crimine di guerra. Cosa ne pensa? Come diceva anche il collega Greppi, è una storia che noi già conoscevamo, ma è interessante il fatto che per la prima volta si stia giudicando una persona che tra l'altro è reo confesso della distruzione del patrimonio culturale di un paese, nel caso specifico del Mali. I beni culturali sono beni culturali islamici, ovviamente, come lei sottolineava prima, quindi in questo momento è doppiamente importante far sottolineare anche al mondo che non esistono beni culturali di prima classe e beni culturali di seconda classe. Sì. I beni culturali appartengono appunto all'umanità e l'umanità non conosce diciamo, alto e basso, mettiamo in questa forma per evitare ambiguità. Ha fatto bene a sottolinearlo. È un'ottima veramente cosa da un punto di vista della giurisdizione, della storia, del rapporto appunto tra i beni culturali e le istituzioni internazionali, che non è sempre stato positivo, insomma. Quindi mi pare è una buona notizia nella nostra ottica, diciamo, di chi opera nel settore dal punto di vista dei beni culturali stessi. Mi sembra una buona notizia. Sì. L'importanza dei monumenti, lo dicevo, dei beni artistici, sì, sono la memoria collettiva, sono la memoria storica, spesso sono simboli identitari, perché rispetto a quei mausolei, ad esempio a Timbuktu, c'era una costruzione anche identitaria dal punto di vista, certo, sociale dei maliani. Però purtroppo le guerre ultimamente hanno preso di mira proprio quelle simbologie, non solo cristiane, ha fatto bene ricordarlo, molto spesso l'Islam più estremo va proprio a distruggere simboli musulmani che non hanno appunto nulla di estremo, nel caso erano appunto simbologie, erano beni culturali e reperti dei sufi. Possiamo citare un caso virtuoso e un caso un po' meno virtuoso in cui di fronte a questa violenza della guerra voi vi siete trovati a dover rimboccarvi le maniche o ricostruire o restaurare o a dover limitare questa violenza che andava a distruggere. Guardi, come caso virtuoso mi piace ricordare il lavoro che sta facendo il mio collega Giorgio Buccellati, che scava nella città di Telmozan, Urkesh anticamente. il quale, nonostante la guerra, nonostante le difficoltà enormi, continua a mantenere rapporti con i collaboratori, i suoi collaboratori siriani, con cui ha instaurato nel corso dei 30 anni in cui ha lavorato lì un rapporto amichevole, stretto, diciamo, che trascende l'aspetto meramente tecnico e scientifico. E lui continua a mantenere questo rapporto nonostante le straordinarie difficoltà del momento. Mi pare, sì, che questo più di ogni altro, cioè questa lavorare nell'ombra piuttosto che no, cercare questa normalizzazione, sia, sì, forse il vero segreto che sta dietro il lavoro del mio collega, che, a cui veramente voglio fare grandi auguri per la riuscita, sì, per tutte le cose che fa. Certo. Come elemento negativo, mi permetta, io mi occupo di Mesopotamia, mi occupo di Iraq, ed effettivamente l'esempio più negativo che noi abbiamo è quando nel 2003 ovviamente c'è stato, 2004, chiedo scusa, c'è stato l'attacco al museo, all'Iraq Museum in Iraq, a Baghdad, sì, laddove le milizie americane, che appunto tra le altre cose sulla base della legge internazionale hanno l'obbligo di salvaguardare i beni culturali che stanno occupando pro tempore, non l'hanno fatto al punto che c'è stata una sola giornata che ha portato via circa tra i 15 e i 20 mila pezzi, e in gran parte sono tornati, cioè, però è l'atteggiamento che è stato sbagliato, il fatto che gli americani non avessero, diciamo, non abbiano valutato bene il rischio straordinario per un paese come l'Iraq di operare nella maniera in cui hanno operato. Mi pare che come esempio negativo, mi permetta, questo è sicuramente forse il più negativo degli ultimi anni, insomma, tra quelli che ho a memoria io. Sì. E purtroppo tra gli esempi negativi, o quantomeno con dei chiaroscuri, c'è anche quello maliano, perché poi insomma l'irruzione di Ansar Eddin fu poco prevista, chissà quanto era prevedibile, di sicuro mise a serio rischio, a serio repentaglio quei mausolei. Vi faccio tornare in quel 2012 per capire meglio le forze che erano in campo e chi combatteva contro chi, però subito dopo il traffico sulle strade italiane. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano. Oggi stiamo parlando di quegli sfregi alla cultura, quegli attentati contro l'umanità che il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA sta in qualche modo cercando di sanare, perché alla berlina, alla sbarra, c'è il presunto responsabile della distruzione di 9 mausolei, appunto, in Mali. Ahmad al-Faqi al-Mahdi, Abu Turab, detenuto all'AIA dal 2015, rischia fino a 30 anni appunto per aver progettato e anche manualmente compiuto parte di quella distruzione. Ma cosa accadeva nel 2012, quando per la prima volta furono messi in pericolo quei mausolei? L'abbiamo chiesto a Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ansar Eddin è una delle forze principali che combattono quei 10 mesi in cui nel nord del Mali, in una regione enorme, viene proclamato uno stato di agitazione, di secessione per alcuni. Se si guarda all'inizio di quella fase, che furono i Tuareg legati al fronte di liberazione nazionale, che però poi vennero sopravanzati dopo aver sconfitto l'esercito maliano, dopo che ci fu un colpo di Stato addirittura nella capitale a Bamako, col presidente che cercò di rifugiare e poi riuscì in maniera molto rocambolesca a infilarsi nell'ambasciata americana. Ebbene, nel nord le formazioni jihadiste di marca qaedista, tra cui Ansar Eddin, presero in mano il potere, cacciando i Tuareg, almeno nella loro versione secolare. Ansar Eddin in realtà è una formazione a base Tuareg, nel nord però, nella regione di Timbuktu in particolare, sono presenti altri raggruppamenti, chiamiamoli etnici, in realtà si tratta di confederazioni tribali, anche di arabi, soprattutto mercanti nomadi. Le grandi carovane che attraversarono il deserto sono state popolate di questi gruppi. Ebbene, nello scontro di Timbuktu prevalsero i qaedisti, in questo caso, mentre la figura di Belmokhtar, che forse ricordiamo come la primula nera, diciamo, del jihadismo in questa regione, colui che poi attaccò nel famoso attacco di Namenas, quel che finì in una strage in Algeria, insomma ricercato numero uno della regione, lui si andò a basare in un'altra regione, a Gao, sempre nel nord del Mali, a Timbuktu, che è la grande città cerniera del deserto, laddove nelle cronache il cammello cede il passo alla canoa, cioè dove le grandi carovane venivano scaricate, dove il fiume Niser fa la curva che consente di passare a un tipo di commercio diverso, si arrivò alla proclamazione di una sorta di emirato. L'idea era quella di creare un grande emirato del Sahara, non ci si è mai arrivati, ma in questi 10 mesi di situazione di bellica nel nord, proprio a Timbuktu si avviò l'azione di distruzione dei mausolei, delle tombe dei santi sufi, come considerate dalla versione salafita, fortemente influenzata peraltro dalla predicazione che arrivava dal Golfo. Ricordiamo che il leader di Ansar ed-Din, Yag Agali, è stato a lungo un dignitario del governo del Mali, proprio a Jeddah in Arabia Saudita, e rientrando ha cercato di ricollocarsi in una posizione tra gli insorgenti Tuareg, non riuscendosi è andato ad abbracciare Al-Qaeda. Insomma, vicende molto complesse che però portarono alla distruzione di queste tombe e soprattutto un attacco ai manoscritti che venivano conservati, in parte un patrimonio andato perduto, in parte invece è stato salvato, portato via con delle canoe e poi in corso di restauro. E questo era il professor Francesco Strazzari della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Quanto valgono i mausolei di Timbuktu? Quanto valevano i Buddha di Bamiyan? Quanto valevano le statue del museo di Mosul o il tempio a Palmira? Sono tutte domande che sfiorano la retorica nel momento in cui essi sono pezzi della nostra identità, sono pezzi di storia, ed è vero che nei conflitti muoiono vite umane, ma allo stesso tempo c'è chi deve, e lo sta facendo, deve anche pensare al dopo, perché quando la pace tornerà in Siria, quando l'Iraq, speriamo, un giorno sarà stabilizzato, ebbene la gente tornerà a calpestare quelle strade e tornerà a ritrovarsi attorno ai templi, e ci sarà bisogno di quei manifesti identitari. Siamo col professor D'Agostino, che è docente di assiriologia al Dipartimento di Studi Orientali alla Sapienza di Roma ed è responsabile di 2 scavi nell'Iraq meridionale, con il quale stiamo cercando di inquadrare meglio, soprattutto dal punto di vista di un archeologo, che è quello che ci mette le mani, il pennellino, il martellino, che lavora con le cose, che lavora con la storia e con la memoria. Professor D'Agostino, stia con me, senta la reazione che ha avuto Zaki Aslan, che è il rappresentante regionale per la zona del Medio Oriente del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, che è un'agenzia, un centro studi che è stato fondato dall'UNESCO. Senta. In a few words that I think destruction of cultural heritage should be considered. Senza tanti giri di parole, dice Zaki Aslan, penso che la distruzione dei beni culturali dovrebbe essere considerata un crimine di guerra, perché consiste nell'abbattere la memoria di un popolo e le conoscenze che sono state accumulate da una certa cultura nell'arco di secoli. Per questo spero che questa sentenza possa servire da deterrente per l'ISIS, per esempio. Attempts by destruction of cultural heritage by ISIS, for example, in future attempts. Professor D'Agostino, oggi un suo collega sulla stampa, Paolo Mattiae, scriveva che nel caso di Palmira, per esempio, bisogna stare attenti, se si andrà a ricostruire, bisogna stare attenti a obbedire a tre principi fondamentali: la sovranità dello Stato, l'UNESCO e la collaborazione internazionale. È d'accordo? Assolutamente. Uno dei rischi maggiori è che si agisca in emergenza anche quando l'emergenza non c'è più. Nel momento in cui si avrà la fortuna di poter operare su Palmira e mettere mano alle distruzioni che sono state fatte, a ricostituire in qualche maniera quando è possibile, bisognerà valutare molto bene innanzitutto con le autorità locali, perché questo è il vero segreto, il modo postcoloniale di operare, cioè di andare nei paesi non come chi ha una verità da insegnare o mostrare, ma cercando di capire insieme a loro qual è la strada migliore, perché i problemi che abbiamo noi sono gli stessi che hanno loro, o viceversa i problemi che hanno loro sono gli stessi che abbiamo noi. Poi anche avere questo supporto internazionale, sia scientifico che legale e legislativo, quindi mi pare che abbia colto nel segno senz'altro il mio collega Paolo Mattia. Sì. non soltanto l'Iraq, non soltanto la Siria, non soltanto il Mali, la accesissima situazione in Libia chiaramente ci fa porre delle domande. C'è stata una conferenza a Tunisi, recentemente organizzata fra gli altri dall'ICROM, Centro Internazionale Studi per Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. Sentite ancora Zaki Aslan, che cosa è emerso da quella conferenza, da quella discussione? Sentite. In fact, jointly ICROM organized this meeting with our parent organization UNESCO. Abbiamo cercato, dice Zaki Aslan, come organizzazione dell'UNESCO, di stilare un elenco delle priorità per la Libia, ma va sottolineato che la distruzione in Libia non è così pervasiva come in altre zone, ad esempio la Siria. Tuttavia il piano d'azione ha stabilito diverse linee sulla conservazione del patrimonio libico per contrastare il saccheggio dei siti archeologici e il traffico di reperti. In terms of illicit traffic and looting of archaeological sites. Abbiamo cercato di dare priorità al ruolo delle comunità locali, che sono parte della costruzione dell'identità di una nazione. Abbiamo discusso la protezione di musei e siti archeologici. Adesso però è il momento di agire. Ad esempio inizieremo dei corsi sulla gestione dei siti culturali in aree di crisi. E questi corsi saranno tenuti nelle nostre sedi regionali. Intendiamo selezionare e formare un gruppo di persone capaci di proteggere il patrimonio culturale di un'area, e di trasmetterlo alle generazioni future. Professor D'Agostino, io prima retoricamente chiedevo quanto valgono i mausolei di Timbuktu, quanto valevano i Buddha di Bamiyan, quanto valgono i siti archeologici in Libia. È possibile monetizzare? Beh, guardi, è un compito non interessante per uno scienziato, perché come me lavora nel settore dei beni culturali. Il valore sì. È un valore storico talmente assoluto, talmente unico, che fa impallidire il valore reale dell'oggetto. Tra l'altro mi creda che non è in nessun modo quantificabile. L'aspetto più interessante è vedere semmai qual è l'indotto economico che proviene dal saccheggio di questi beni. Bene, questa è una cosa piuttosto difficile da determinare. Sicuramente c'è un patrimonio che viene distrutto anche fuori e lontano dai riflettori dei media, quanto sia quantificabile, in che modo quantificare, è molto difficile. Ci vorranno anni per capire qual è il vero prezzo che hanno pagato paesi come la Siria, come l'Iraq, come lo Yemen, come appunto la Libia che lei citava prima. Quindi credo che non è il problema nostro, non è tanto monetizzare quanto cercare di capire come evitare. Come vede si sta muovendo molto il mondo. Mi permetta di ricordare che il 17 luglio di quest'anno l'UNESCO ha accettato nella World Heritage List le marshlands sumeriche, cioè le paludi sumeriche del sud, e insieme tre importanti siti, Eridu ed Uruk, che sono tre città sumeriche importantissime. Quindi nonostante la guerra, nonostante le difficoltà, chi si occupa dei beni culturali in questi paesi cerca disperatamente di andare avanti e di mantenere più che può la barra dritta verso quello che diceva lei, appunto la normalizzazione. Sì. L'Iraq d'altronde è un paese che ormai largamente è normalizzato, quindi insomma è un paese in cui si può immaginare, più che in Siria o in Yemen o in altri paesi, una regolamentazione, eccetera. Sì, soprattutto l'Iraq meridionale dove lei opera. Abbiamo chiesto però a Zaki Aslan, che è rappresentante regionale di ICROM, quanto le organizzazioni terroristiche e criminali possono avvantaggiarsi dai siti culturali, dal saccheggio, quindi quanto la guerra possa trarre benefica linfa vitale dalla distruzione di questi beni. Sentite. Unfortunately it's happening and there are actually Sfortunatamente, dice Zaki Aslan, sta succedendo, queste organizzazioni stanno sfruttando i siti archeologici, ma non abbiamo statistiche sufficienti. Quello che stiamo provando a fare con organizzazioni connesse a noi, come l'Interpol per esempio, è di individuare il fenomeno, controllarlo, cercare di impedirlo, ma a mio avviso il primo obiettivo è di aumentare la consapevolezza. Siamo quasi in chiusura. Professor D'Agostino, la consapevolezza, il problema qual è? Che molto spesso si dice, attenzione, c'è una guerra in corso, ci sono migliaia di vittime, perché dobbiamo pensare ai reperti archeologici? In chiusura, brevemente. Guardi, questo è un leitmotiv che noi sentiamo molto spesso. In realtà la questione è molto più semplice per noi. Sono i locali, i nostri colleghi archeologi, i sovrintendenti locali che ci chiedono di aiutarli, di collaborare con loro a mantenere il loro patrimonio. Non è una nostra, come dire, pruderia occidentale, sì. È un desiderio loro, stavo parlando prima di questo modo postcoloniale di, sì, operare, sono loro a chiedercelo, noi andiamo lì su loro richiesta e cooperiamo, collaboriamo, cerchiamo di andare tutti insieme nella direzione giusta. Sì. E mi pare che lentamente, come diceva lei, ed è giusto, si sta creando una coscienza internazionale relativamente a tutto questo. Questo non toglie nulla, ovviamente, alla necessità di salvaguardare profughi, di salvaguardare donne, bambini, la vita umana, eccetera. Questo non ha niente a che fare con quello, è un altro problema, ma è un problema di fronte, come diceva lei, di fronte al quale si troveranno coloro che dovranno poi ricostruire il paese, perché il paese non si ricostruisce soltanto sul petrolio, sui soldi, eccetera, sul benessere, ma si ricostruisce anche su una storia comune che, se viene obliterata, non si recupera più, purtroppo. Grazie mille, professor D'Agostino, docente di assirologia al Dipartimento Italiano di Studi Orientali alla Sapienza. So che fra l'altro è in partenza, quindi buon viaggio, torna nel suo Iraq a dare una mano, come diceva lei, a ricostruire anche la storia e l'identità. Adesso siamo quasi in chiusura e titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Tali, Eleonora Aragone, Silvia Mannati in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Voi per essere stati all'ascolto, vi ricordo che l'appuntamento è questa sera alle 21 per la replica, domani alle ore 16, quando ancora nessun luogo sarà lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.